feste la promessa, ma di sfida ebbe il luogo. Il barone fu ferito, però migliora. Alfredo è in stragno suolo. Il vostro sacrificio io stesso li ho svelato. Egli a voi tornerà per suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, cercate un avvenire migliore. Giorgio Germont. E tardi! Attendo, attendo, né io mi giungo mai. Oh, come son mutato!